Ma io ce lo parlo prima di lui, ma l'ha capito. Silenzio, la vecchia! Si apre. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Popolo della zanzara, ma non siete felici di sapere che il vostro cane preferito, cioè Dudu, non è gay? Parenzo, dove sei? Roma, Roma, Roma, sede del Sole 24 Ore, non diciamo la via, ma tanto lo sanno tutti ormai. Piazza Indipendenza 23, andatelo a prendere, andatelo a picchiare. Popolo della zanzara, non siete contenti che il cane di Berlusconi e della Pascale ha tentato di farsi la cagnetta dalla Biancofiore? Voi avete presente il famoso ingroppamento? Ingroppamento? Io non so, con qualche giorno di ritardo rispetto all'emissione, alla nota emissione, come dice qualcuno, la zanzara, come dice il presidente napoletano, napolitano, non napoletano, napolitano, napolitano, scoppia sui siti la questione Biancofiore, cioè la Biancofiore che dice che Dudu non è affatto gay, anzi che gli si è drizzato, urca, urca, e che ci ha provato con la sua cagnetta, eh. Vabbè, noi facciamo risentire, su. Ci ha provato, è normale che ci provi, voglio dire, quella è femmina, pure figa, tra l'altro. Ci ha provato, vuol dire che il cane, ecco, vi rispondo così, il cane, vi posso assicurare che Dudu non è assolutamente gay, questo ve lo posso assicurare, minimamente. O lei l'ha visto in erezione, diciamo. Porca! Zanzara! C'è una zanzara. Vabbè ragazzi, questa introduzione ci voleva, eh. Ma però... questo è quello che dice lei, però, eh. Vabbè, l'ha visto. Mancano le prove, vabbè, ho capito, tutto in famiglia, però, eh. Ci vorrebbe... qualche giudice terzo. Allora, tanto per parlare di frattaglie, prima di arrivare al sodo. Beh, quando vi muovete, state attenti che se lo fate tutti insieme, no? Se lo fate tutti insieme, potete provocare un terremoto. Un terremoto. La tesi di Povia, quello di Luca era gay. Molti mi smentiscono e dicono no, i terremoti non si possono provocare artificialmente, invece nel 2006, 2009, 2013 la Corea del Nord ha fatto degli esperimenti nucleari che sono stati visti anche dai sismografi siciliani, quindi vuol dire che tutto è possibile. Crucia, altro che cazzate, tu prova a immaginarti un ipocentro di un chilometro e mezzo in piazza San Giovanni il 1° maggio con 800.000 persone che saltano durante il concerto. Arriva il terremoto scaturito dalle cause che la scienza ha già detto e questi 800.000 persone che saltano al 1° maggio con un ipocentro di 1.000 metri sotto, tanto no, l'ipocentro può andare da 0 a 700 km e non possono contribuire? Provami che non possono contribuire. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Beh, cari amici, oggi c'è un congresso di un partito, lo so che non ve ne frega un cazzo, che non ve ne importa nulla, ma non perché è il congresso di Sinistra, Ecologia e Libertà, perché non ve ne frega niente alla fine di quello che chiacchierano all'interno dei congressi dei partiti, che ve ne frega, però è tornato Bendola, è tornata la supercazzola di Bendola, quella che stai per ascoltare, quella che state per ascoltare, amici della Zanzara, popolo della radio, popolo della Zanzara, è una cosa strepitosa. Strepitosa, è Vendola proprio ai massimi, sì. Il vendolismo ai livelli più grandi. Critica degli armamenti e dell'armarsi, a partire dagli apparati industriali militari per finire agli apparati genitali. Le guerre stellari, la guerra infinita, le guerre umanitarie e democratiche, le fosse comuni, le stragi chimiche, le Twin Towers, la strage di bimbi di Beslan, i kamikaze, la carneficina degli adolescenti norvegesi nell'isola di Utoya, le bombe intelligenti, le stupidissime mine, un bimbo rom ucciso dal rogo occasionale in una roulotte. Hai capito bene o no? Beh, stupendo però. Ma hai capito bene o no? Questa è poesia politica pura. Ma dai ragazzi, ma è la super cazzo. Cioè, ha fatto l'elenco. Ma poi scusa, che c'entra i genitali? Aspetta, risentiamo un attimo, risentiamo. Adesso te lo spiego. Aspetta. Tutto il giorno. Critica degli armamenti e dell'armarsi, a partire dagli apparati industriali militari, per finire agli apparati genitali. Le guerre stellari, la guerra infinita, le guerre umanitarie e democratiche. Sbiriguda, supercazzo la prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ah, risenti sta supercazzola, un'altra, eh. La vedi che stuzzica? Aspetta, un'altra, te ne faccio sentire, aspetta. È capitato di avere, in sequenza wagneriana, una destra che fa la destra, un centro che fa la destra, una sinistra che fa il centro e poi una sorta di destra globale, quella che comunemente chiamiamo col nome di emergenza, che ci impone il suo comando feroce ma si sottrae a qualunque contraddittorio e a qualunque verifica. Ragazzi, su, ma non è possibile. Ma è in dai, sequenza su. Wagneriana, ma vuol dire in un crescendo. Ma la gente non diresti... capisce. Ma la gente non è che deve capire tutto per forza, però. Scusi, ma in non sequenza... capisce la gente. Allora adesso in sequenza wagneriana noi avremo gli ascoltatori che si incazzeranno, un ospite straordinario. Aspetta. Intanto sequenza wagneriana, intanto stupendo. Berlusconi ha fatto una nomina. Giovanni Toti è il nuovo consigliere politico. Ma scusate un attimo, ma non era consigliere politico pure prima? Cioè prima si parlava di coordinatore, capo di Forza Italia, segretario, eccetera. Adesso è rimasto dov'era? Cioè consigliere politico, è vero che si è dimesso dalle direzioni, ma è consigliere politico come era prima? No. D'altra parte, insomma, che Giovanni Toti fosse dalla parte di Berlusconi o fosse un berlusconiano di ferro, non è che lo scopriamo adesso, eh. Senti un po'. Nel paese dove la lentezza delle istituzioni è leggendaria e la lunghezza dei processi addirittura famigerata, due sole parole sembrano in grado di scuotere dal torpore i palazzi della pubblica amministrazione, soprattutto i palazzi di giustizia. Le due parole sono Silvio Berlusconi. Non me moleste moschito, non me moleste moschito. Non mi molestiamo scritto. Vabbè, intanto impazzano i giochi in Parlamento sulla legge elettorale, sul famoso Italicum. E la gente se ne fotte. Abbiamo con noi, però. Molto bene. Un deputato della Lega Nord molto che ha proposto bene. Un grande disegno di legge in Parlamento di cui parleremo. Importantissimo. Sui Rom? Che c'entrano i Rom, non c'entrano niente. Importantissimo. Sul federalismo fiscale. Roberto Caon, Lega Nord, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Come sta, caro? Ma diciamo decisamente bene. Si combatte, si combatte. Allora, stiamo lavorando. Si combatte come una nutria, anziché come un leone. Si combatte come una nutria. Lei che cosa ha presentato in Parlamento sulle nutrie? Ma io ho presentato una proposta di legge. Sì. Per quanto riguarda la cattura e l'abbattimento della nutria e anche per la stessa cosa per i piccioni. No, scusi, allora partiamo dall'abbattimento della nutria. Cioè lei pensa che quando gli argini non tengono più, quando gli argini esondano, la colpa sia principalmente delle nutrie, giusto? No, allora dobbiamo essere un po' più precisi, perché mi sembra che sia molto sommaria la sua domanda. Allora, se esondano vuol dire che si innalzano talmente tanto, fortunatamente l'argine riesce a tenere, l'acqua che è di più purtroppo. No, ma dico, che responsabilità hanno le nutrie? Scusate, che responsabilità? Ma è una cosa fisica. Se lei prende, anche quando fa un castello di sabbia con il figlio, se riesce a fare un buco, e in quel punto là poi passa l'acqua, cade prima in quel punto là del castello che non fa. Ho capito, però lei pensa davvero che ci sia bisogno di presentare un disegno di legge in Parlamento per abbattere le nutrie? Cosa, perché da anni che tutti quanti mi chiedono, ancora quando ero consigliere comunale nel paese, di risolvere questo problema. Questo animale non è neanche riconosciuto, non è neanche nella lista? Degli animali cacciabili. Perché è un degli animali cacciabili? Cioè lei pensa che dovrebbe essere, cioè i cacciatori lo dovrebbero? No. Allora, qualsiasi provincia così, ha il discorso venatorio. Per la volpe o come altri animali si va a creare quelle squadre che sì, poi possono dare una mano e di, far, diciamo così, diminuire il numero di animali che creano problemi nella, nell'agricoltura, o in questo caso anche faccio, fanno questi conicoli e potrebbero. Sì, però scusi un attimo, chi le dovrebbe, chi le dovrebbe cacciare queste nutrie? Invece la nutria non è riconosciuta, non essendo figlia di nessuno, può svolgere il suo, crearsi il suo habitat e nessuno sì, gli può dire niente. Cioè, però scusi un attimo, non è riconosciuta perché è un animale sì, che è un derivato che avevano fatto. No, ma adesso lasci perdere, ma perché lei si vuole occupare del riconoscimento della nutria? Perché lei in perché lei in Parlamento si deve occupare del riconoscimento della nutria? Chi è che dovrebbe cacciarla poi? Io sono in Commissione Agricoltura e in Commissione Agricoltura abbiamo anche questa facoltà. No, ho capito. Allora, chi è che dovrebbe cacciare in squadra queste nutrie? No, guardi, la polizia provinciale, che è diciamo la polizia poi venatoria, provinciale, come, come nelle fattispecie delle volpi, crea ad hoc in mezzo a tutti i suoi tesserati. Sì. Ma insomma, va sterminata la nutria. Tira fuori quei 5, 10, 15, 20, 50 volontari, gli dà un tesserino apposito. Che tesserino apposito? Hanno, hanno la possibilità di cacciare la nutria o la volpe. Ah, ho capito, ho capito. Questa è la procedura. Cioè, bisogna creare un tesserino per i cacciatori. Tesserino. Se ha per caso un cacciatore davanti a casa e comincia a sparare nel fossato davanti a casa e gli dice ma perché spari proprio vicino a casa mia? Ci sono, bisogna un po' tutelare la sicurezza, un po' tutelare anche che qualsiasi matto si metta a sparare perché magari vede il gatto, non è una nutria. Beh certo, sono temi molto importanti da, di cui il Parlamento si deve occupare. Siamo come lei, siamo come lei. Quando porta a spasso Parenzo, no, quando porta a spasso il cane, scusi, non è mai andato lungo un argine a vedere l'effetto delle nutrie? Comunque ragazzi, io di questa discussione sull'Italico mi sono già rotto i coglioni, No, pensavo sulle nutrie. No, sulle nutrie da mo' che mi sono scocciato. No, ti dico la verità, sono ecco più importanti le nutrie della legge elettorale. Ma non è vero, ma non è così. Però, però scusa, ci sono quelli che vogliono le modifiche per la Lega, quegli altri che vogliono le modifiche per le preferenze, e gli altri ancora che dicono che la soglia di sbarramento è troppo alta, quegli altri che dicono che è bassa e poi il premio di maggioranza. Abbiamo ricominciato da capo. Renzi dice modifiche possibili ma non ripartire da capo. È tutto finito già. Ma aveva già detto che era blindato questo testo, adesso, adesso le modifiche sono possibili. Io veramente non capisco. Le modifiche sono possibili, Renzi. Modifiche sono possibili, il Parlamento è libero di farle, l'importante è che siamo tutti d'accordo, se no si riparte da capo. E io sono talmente contento che finalmente è arrivata in aula che dico benissimo, chiunque vuole la modifichi, però senza che qualcuno poi utilizzi la scusa per andare via. Non si è capito niente nemmeno qua, cosa si può modificare e cosa no, è una cosa incredibile. Abbiamo con noi l'uomo che vuole cacciare le nutrie e sterminarle perché sono un grande problema per gli argini dei fiumi e presenta una proposta di legge in Parlamento, Roberto Caon, Lega Nord. Allora Caon, io voglio capire una cosa, per lei, per lei le nutrie vanno sterminate o no? Guardi, se lei ha un problema di un formicaio dentro casa, cosa fa? Ma non vado in Parlamento però. Cioè, non è che scusi, formicaio dentro casa, non è che presento una. Scusi, scusate, scusate, forse voi non capite. Se un animale non è conosciuto, perciò non si può cacciare a livello nazionale. Per metterlo dentro nella specie cacciabile, per dove si bisogna passare? No, però scusi, no, ma capisce che no, io capisco, ma perché bisogna sterminare le nutrie? E poi io non ho presentato perché vado in Parlamento. Sono cose che si possono risolvere anche in commissione. Scusi, però i piccioni che c'entrano? Guardi, i piccioni è molto semplice. Noi abbiamo una cultura, abbiamo una storia da preservare. Abbiamo delle bellezze artistiche che io penso siano il futuro del nostro turismo se riusciamo questo a lo sappiamo. Sintetizzo. Vogliamo lasciarci spianare queste statue, queste bellezze architettoniche dai colombi. Su questo ha ragione. No, sì, ho capito. No, però io sostengo la battaglia di Caon sui piccioni. Cioè, allora che cosa bisogna fare? Siccome i piccioni cacano, scusi, ho chiesto che venga fatto un sistema di sterilizzazione con dei mangimi. Bravo. No, scusi, sterilizzare Caon. I piccioni, ha ragione Caon. No, questo. Però scusi Caon, non è possibile che il Duomo di Milano sia lordato o le bellissime chiese del Veneto siano lordate dal guano. Ha ragione Caon. No, però Caon. Scusi Caon, secondo lei bisogna... Occupatevi di questo e non di Rom, di immigrazione. Questi sono temi e io vi sostengo su questa battaglia. No, scusi Caon, però sì, abbia pazienza, ragione, io sono anche... cerco mi di meraviglio capire. Che il Sole 24 Ore non si occupi di questa vicenda dei piccioni invece. No, però scusi, adesso tu lo stai prendendo per il culo. No, io sui piccioni... No, sulle nutrie un po'. Sui piccioni ha ragione, perché è un problema drammatico quello dei piccioni. Guardate, io... Questo è vero. Cioè, nella proposta di legge c'è la sterilizzazione? C'è la sterilizzazione, Caon. Nella proposta di legge c'è la sterilizzazione dei piccioni? Scusate, se ci sono delle diciamo confederazioni o confederazioni. Anche delle associazioni sì. che espressamente ti richiedono questo, io chiedo, perché io non devo fare il mio mestiere? Sì, ipotesi, qualsiasi sì. associazione sì, però, per quanto riguarda i problemi agricoli, sì. Dicono che hanno un problema, che è un problema sempre più sussistente sì. e che può creare, abbiamo visto in qualche caso, anzi in più casi... Che, no, ma i piccioni, voglio capire i piccioni, cioè come si fa a sterilizzare... Spiegato, mi sembrava ma sterilizzarli, chiaro. Lei propone una legge in cui... Ci sono dei mangimi già esistenti, basta solo che qualsiasi... Sterilizzare comune, qualsiasi i piccioni. Guardi... Perché non si può fare oggi. E in alternativa per salvare i monumenti? Cioè, che si fa? Cioè, o sterilizzarli oppure sparare? No, io penso che sparare in mezzo ai monumenti sia la cosa peggiore, sbagliata. No, in mezzo ai monumenti, i piccioni. D'altronde dove sono? Dove si annidano i piccioni? Sì. Non sono... per le campagne, solo per le campagne già c'è il cacciatore che fa la sua cosa. Per quanto riguarda invece quando si è dentro a una città storica non c'è neanche la possibilità di sparare, perciò bisogna utilizzare altri sistemi, cioè, mi sembra una cosa di buon senso. Guarda che è un problema di cui si occupò anche Cacciari quando era sindaco di Venezia. Ragazzi, d'accordo, però il Parlamento no io ti assicuro la sterilizzazione davvero. Dei piccioni Cacciari, dai, se ne occupò anche il professor Cacciari. Guardi, noi in Parlamento funzioniamo a livello nazionale, se lei ha a che fare con delle associazioni o bravo, con altri apparati e chiedono ma scusi per Dudu che facciamo? Hanno questo bisogno perché c'è uno dove si deve rivolgere, che per poi, Dudu che facciamo? Provincia, nella provincia di Padova, ma utilizzano un sistema nella provincia di Vicenza, cioè ci sono delle cose che secondo me, come viene destinato che certi animali sono cacciabili oppure no, o determinate caratteristiche partono da determinati come posso dire input, anche questo è un input che io mi sono sentito di fare e che i piccioni, nutri e piccioni. Guardi, domani se cade l'argine che ho di fronte a casa mia, che fa? Spara i piccioni, spara le nutrie? Per colpa delle nutrie, perché c'è stato io, tutto sommato, ho cercato di fare il possibile. Vabbè. Insomma, caro Caon, perché in Parlamento lei ha detto che ne avete pieni i coglioni del Sud? L'ha pure interrotto il presidente? No, io sto parlando, io lei mi ha chiamato, mi sembra, per quanto riguarda la nutria e piccioni. Vabbè, ma che c'entra? Rispondo per quello che ho depositato in Parlamento. Vabbè. Se no. Vabbè, Caon, grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Franco da Caserta, buonasera. Buonasera. Pronto? Franco, dica. Buonasera, volevo parlare riguardo dei prossimi di un nuovo strada. Non ho capito, scusi, la sento poco. Pronto? Sì. Vabbè. Bruno da Milano. Eccomi. Dica. Allora, prima di tutto la mia gratitudine, la mia affetto, le mie amicizie a voi due, a tutti e due. Vabbè, non ce ne frega niente, poi? Vabbè, ma a me sempre mi fate contento. Che carino, poi, che gentile. Io vedo la vostra trasmissione, soprattutto quello che fa Cruciani, sì. come una specie di lente di ingrandimento che mette in evidenza gli aspetti delle persone con le sue domande, no? Vabbè, però qui, Bruno, sono le 18.54, non ci possiamo occupare di fare l'esegesi della zanzara. Su, caro amico mio, vada al sodo, che cosa vuole dire? Voglio dire che ha perso un'occasione quando ho intervistato quella signora che diceva che è meglio e più godimento non darla che darla. Sant'anche. Sa perché? Sì. Perché quando uno... Quell'altro parla a mezza bocca, poi Bruno, allora... Istintivamente si riferisce a se stesso. Non ho capito. La signora diceva in sostanza sono una passera di legno, non sento niente, tanto che godo di più vedere gli altri sbavare per me che è meglio dargliela. Dunque? Ha capito la cosa? No, non ho capito niente. Scusi, ma non ho capito niente. Mi avete già rotto le palle, eh? Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Oh, chissà cosa ne pensa il direttore della nomina di Toti a consigliere politico di Berlusconi, cosa che era anche prima. Come dice Feltri, forse doveva diventare il numero uno, in realtà è già il 4 o il 5, eh? O no? Però chissà perché c'è questo fascino della politica, e questo è stato l'errore. Quando Berlusconi poi t'acchiappa, diventa difficile di vincolarsi. Secondo me Toti doveva essere il numero uno, adesso è già il numero 4 o 5, no? O forse... Caduto il sindaco di Salerno, il nostro amato sindaco di Salerno, anche se poi lui annuncia ricorsi su controricorsi, eccetera. Dopo un esposto grillino, un tribunale, ma non valeva la pena di mettersi prima. Cioè, sarebbe bastato un gesto, una cosa, invece di sottoporsi a queste robe, i ricorsi, i controricorsi, i grillini che ti attaccano, i tribunali. E un tribunale fa decadere dalla carica di sindaco il mitico De Luca, di cui vogliamo ricordare le sue mirabolanti imprese. E allora è diventato un calvario per chi vive la propria città mantenere l'ordine, mantenere il rispetto delle regole, perché hai pochissime forze a disposizione. Adesso abbiamo deciso, ho deciso di tornare io di notte con due o tre pattuglie dei vigili urbani sulla litoranea, abbiamo di nuovo un'invasione di prostituzione. Lo so. Non c'è più un euro. L'invasione della prostituzione. Poi contro i cafoni ci vuole il lanciafiamme, quelli che imbrattano la città. De Luca, sempre numero uno per me. Non me ne frega niente di quello che ha fatto. Il doppio incarico, sì, poteva evitare, gliel'abbiamo detto in faccia. Gliel'abbiamo detto niente. Sempre. È il numero noi. Uno, altro che il sindaco fascio comunista, come dice qualcuno, queste stronzate. È uno che è efficiente, che decide, che prende le sue decisioni e si prende le sue responsabilità. Poi, certo, è malato un po' di protagonismo. Un po' dunque, autoritario. Ma che autoritario? Ma che decidere autoritarismo adesso? Un po' ma autoritario. Dai, ma che autoritario? Dai modi, nei modi. Ma nei sì, modi. Senti, contro i cafoni, andrebbero altro che lanciafiamme. Io quelli che imbrattano i muri delle città li piglierei, li terrei dentro per due anni in carcere, poi vediamo quelli che imbrattano i muri delle città. Ma arrivano anche a me segnalazioni. L'ultima che mi è arrivata riguarda via Vigorito. Sono state collocate le telecamere per la zona traffico limitato e c'è qualche cafone che ha preso l'abitudine di passare sotto il porticato del palazzo. Ma non ci sono parole. Non voglio dire che ci vuole il lanciafiamme, se no mi ritrovo su Striscia la Notizia. Ho visto che adesso hanno trovato quest'altro filone. Che paese, ma che paese che sia. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Legge elettorale, prima ok in commissione, ma scontro sulle preferenze Alfano, emendamenti su scorporo e sistema tedesco, Vendola, non finiremo nel PD. Berlusconi con Renzi avviata la prima importante riforma, finalmente nel PD qualcuno con cui ragionare, Toti nominato consigliere politico di Forza Italia. Il governo gioca la carta delle privatizzazioni, si parte con Poste ed ENAV in consiglio di amministrazione, anche misure per il rientro dei capitali all'estero. Meno convulsa del previsto la corsa finale per pagare Mini IMU e Tares, ma tra i contribuenti resta lo sconcerto per la complessità dell'operazione. Per affrontare l'emergenza carceri l'unica strada è l'indulto, così il presidente della Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. In Egitto, sanguinosa vigilia del terzo anniversario della rivolta contro Mubarak, scontri tra polizia e manifestanti, quattro bombe esplodono al Cairo, 19 vittime e decine di feriti. La pioggia, lo sciopero dei mezzi, un incidente, 10 km di fila bloccano il grande raccordo di Roma. Tra umor nero e disperazione c'è chi alla fine se ne va a piedi. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Io temo, caro Parenzo, per le sorti dei Marò in India. Temo fortemente per le sorti dei Marò in India. Da quando se ne occupa questo qui? No, ma non sei, è andato in India e vuole occuparsi. Ma è andato proprio? È già in India e si vuole occupare delle sorti dei Marò. Cioè vuole fare da mediatore tra il governo italiano e il governo indiano. Stiamo parlando di una minaccia solo. E lo annuncia. o nel Tamil Nadu. Mi raccomando, nel Kerala noi abbiamo delle cose diplomatiche un po', lo sappiamo, un po' delicate con i Marò. L'ambasciata d'Italia sa perfettamente, l'abbiamo informata, la cancelleria se ne è occupata. Abbiamo detto all'ambasciata d'Italia che se i Marò lo desiderano, noi siamo disponibili a recare loro conforto. Uno scambio? No, cioè, lo scambio no, loro rimangono. Girano voi e liberano loro. No. Se i Marò lo desiderano, noi non abbiamo problemi, visto che. Beh, verrebbe da dire tenetevi il divino Telma, aridateci ai Marò. Invece lui dice no, no, lo scambio no. Beh, certo, stare in prigione in India, caro divino. Siamo in partenza per l'India, proprio uscendo di qua da via Teulada andremo ai voli internazionali. Teulada Bombay diretto. È diretto. Cosa va a fare? Andiamo in visita pastorale. Noi ci rechiamo una volta all'anno in India in visita pastorale. Visita pastorale? Quindi abbiamo dei fedeli disseminati in alcuni stati indiani, nel Kerala per esempio, ma anche nel Rajasthan. Ma così si canterà. Ragazzi, a parte che io non ci credo che l'ambasciata italiana è stata informata. Ma con tutte le robe che hanno da fare, ma ti pare che ricevono il fax della cancelleria del divino matto? Ma che poi è lui, la cancelleria. Ogni tanto c'è questa invasione di mail tra gli addetti ai lavori. Arriva la cancelleria di Eva Perez, è lui. Non c'è Eva Perez, è lui. Non c'è nessuna cancelleria, non è lui. Non esiste niente. Noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo Elo, dai, voi rispondete in. Poveri Marò, Elo. Poveri Marò. Marcello da Roma, Marcello. Quelli tremano. Buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, senta, io ascolto sulla Radio 24 e prima ero collegato e parlavate tanto di Vendola. Sì, sì, sì. Usando parole molto volgari, ma quali volgari? Scusi, no, quali parole volgari? Sì, sì, e poi facevate anche ironia sul fatto del suo discorso sui genitali. Ma voi parlate di questo qui, ma voi usate i genitali, li usate sempre, ce l'avete sempre in bocca. Beh, imparate un po' a essere un po' più educati. No, però scusi, Marcello, caro signor Marcello da Roma, noi abbiamo preso in giro la supercazzola di Vendola che fra poco faremo riascoltare. Perché usate la supercazzola? Ma la supercazzola non è un'offesa, è una cosa incomprensibile. Lei la conosce la supercazzola? No, io queste volgarità non le conosco. Vabbè, lei non conosce le volgarità, in che mondo vive lei? Io vivo in questo mondo, ma sono molto corretto e rispettoso. Sì, dunque lei la parola supercazzola la conosce o no? Da voi l'ho imparata. Ma la supercazzola non è... Tognazzi, E poi a proposito di Marò, ho sentito poco fa la Bonino dice che Marò dopo il processo dovranno scontare la pena in Italia. Allora non sarebbe bene pure fare... Noi libereremo le carceri, tante carceri, le carceri, un terzo dei nostri carcerati sono... comunitari non italiani, allora potrebbero far scontare la pena a casa loro. Che ne dici? Marcello, arrivederci. Marco da Lucca. Marco, eccomi. Devo tanto per cambiare parlare col nano. Col nano chi è? Ci sarebbe, scusa. Parenzo. Parenzo, dimmi, Marco. Allora, io la mia campagna o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni la devo ritirare perché ascoltandolo Barisoni mi rendo conto che lui sta tirando sempre più fuori i coglioni, è un grandissimo lottatore e quindi rischieremo di freddare anche Focus Economia. Avrei un'alternativa, lancio una nuova campagna, vai da padre Lirio Fanzaga, veramente, è l'unica alternativa, ti rimane Radio Maria, Parenzo, dammi retta. Cioè lo sente moscio lei? Ma moscio è un eufemismo. E dire poco, ma hai ragione, Marco. Io Fanzaga. Ma parli, primo parli piano, secondo parli Fanzaga a mezza bocca e non si capisce niente. Parli padre sottovoce, non fai mai polemiche. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ha ragione Marco da Lucca. Marco, insisti su questo. Avrei una proposta. Se lui avesse la voglia e il coraggio di fare un'inchiesta giornalistica sui froci, tipo una froceide, come diceva lei, no? Lo carichiamo su un camion, gli facciamo fare la 1 da Milano a Napoli e poi quando torna ci racconta la froceide, vediamo come ce la racconta, vediamo un pochino almeno se funzionasse questa, tiriamogli di fuori così, coglioni, mandatelo a fare un'inchiesta sui lavavetri. cioè non lo, mandatelo a sparare alle nutrie. Cioè, abbiamo trovato questo nuovo mostro meraviglioso che avete presentato voi stasera. Sì. Cioè, problemi che andrebbero risolti neanche a livello comunale, a livello circoscrizionale. Sì. Questo li porta in Parlamento. Un altro mostro, un altro. Ma mandiamoci Parenzo. Parenzo, io ti chiedo, crea il nucleo cacciatori nutrie, io ti finanzio, te lo giuro. Basta che non ci rompi le palle con le tue moscerie qua alla radio. Esatto, basta che smetti di buttare acqua sul fuoco, perché veramente sei diventato insopportabile. Secondo me ti caccia anche Padre Lidio, perché gli ammosce anche le sue, te lo dico io. Grazie, grazie, grazie. La verità, la voce della verità, Angelo, grazie, dalla provincia, Marco, di Taranto. Che grazie, grazie. Grazie. Angelo, provincia di Taranto, Angelo, vai. Pronto, buonasera. Sì, dimmi. Senta, vorrei raccontare una storia che mi è capitata sulla superstrada tra Taranto e Bari. Lei che mestiere fa, il camionista? No, io guardi, io sono agricoltore. Pure, ma lei che c'entra allora? La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Qui siamo al top, eh? Siamo al top del vendolismo. Finalmente è tornato Vendola, così ci fa lavorare un po' la rubrica su Vendola, eccetera. Ci mancava, eh? Ci mancava la grande supercazzola di Vendola. E sentiamola subito, la grande supercazzola. Critica degli armamenti e dell'armarsi, a partire dagli apparati industriali militari per finire agli apparati genitali. Le guerre stellari, la guerra infinita, le guerre umanitarie e democratiche, le fosse comuni, le stragi chimiche, le Twin Towers, la strage di bimbi di Beslan, i kamikaze, la carneficina degli adolescenti norvegesi nell'isola di Utoya, le bombe intelligenti, le stupidissime mine, un bimbo rom ucciso dal rogo occasionale in una roulotte. Di che stava parlando tu, che sei stato attento? Scusa, di che stava parlando? Delle strutture del mondo, no, delle, ha degli fatto l'elenco delle armi, della violenza e delle guerre che ci sono, invece. Dai, su. Ma, ha fatto ma un i genitali elenco. Che significava, ma, i genitali? Però, scusa, perché, i genitali, che voleva dire? Era un chiarissimo riferimento alle nostre vicende italiane, quello. Sì. E a questo, cioè, uso a questo. Sì, ma a me piace, dimmi, Vendola, sentirlo parlare. Figuriamoci. Perché ha questo linguaggio immaginifico, che non è un linguaggio arido, povero, sì, volgare, sì, è un linguaggio ricercato. Beh, certo, molto ricercato. Ha messo, su, insieme, mazza, poi? Ha messo insieme tutte le guerre e le violenze dell'ultimo periodo. Non era si straordinario. Capisce una mazza, le guerre stellari, le fosse comuni, le genitali, dai, su, non diciamo follie. Ma qui è tutto un casino, che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Oh, Giovanardi colpisce ancora. Ieri a Porta a Porta si parlava di gay dopo la gaffe di Vespa con quel tweet, no? In cui pare che volesse fare una trasmissione presentando di storie di gay che vogliono guarire. In realtà non è così, anche se quel tweet è stata una mezza gaffa, dai. Come ti stendi nel letto? Giovanardi dice: gli italiani sono bloccati in Congo per colpa della coppia gay canadese. Che è vero, però. Lo sa perché le 24 famiglie italiane sono in Congo e non riescono a portare a casa i loro bambini? Allora, lei lo sa perché le nostre 24 famiglie italiane sono in Congo e non riescono a portare a casa i loro bambini? Perché il governo congolese si è accorto che due canadesi hanno adottato un bambino e hanno chiuso le adozioni. No. Come la stragrande maggioranza dei paesi da cui adottiamo bambini è pronta a fare, perché rivendicano e richiedono che un bambino abbia un padre e una madre. Poi ritorna sulla storia delle piume, il carro, cioè i gay non sono quelli che stanno sul carro con le piume, sono vicini a me. Che la maggioranza silenziosa degli omosessuali italiani, a cui mi sento molto vicino, la pensano come noi e non come l'associazione. E non, ma voi pensate che sono tutti quelli delle marce gay con le piume, con le penne, seminudi, gli omosessuali italiani? C'è la grande, stragrande maggioranza degli omosessuali italiani, no, che sono gente seria, che lavora, che vive la sua vita e che non ostenta. Ma soprattutto la grande rivelazione di Giovanardi è questa. Fermi, state attenti. Mia figlia si è sposata, almeno sembra, con un nero che è stato anche gay. Io, ma cosa ma senti questa cosa. La storia alla povia. Senti. Mi ha beccato. Se sua figlia femmina le dicesse un giorno: senti papà, Io mi sono innamorato di una mia compagna, di una donna, e voglio andare a vivere con lei. Come la prenderemo? Mia figlia qualche anno fa mi disse, adesso è sposata, figli, papà in Sudafrica, mi sono fidanzata. Si può sempre cambiare idea, È tornata a casa e mi ha detto, mi sono fidanzata con un rasta, io non sapevo, mi ha spiegato cos'era. Vabbè, è di colore, mi ha spiegato cos'era. Poi ti è sposato, e io sono un uomo di mondo, dico, vabbè, al giorno d'oggi... è sposato con un uomo. A quel punto, quando mi sono svegliato a pronto soccorso per qualche ora dopo, poi mi ha spiegato che in realtà era un matrimonio di quelli fatti per far acquisire la cittadinanza. Cioè, non so se è chiaro. Non sa neanche chi sono i Rasta. Allora, la figlia di Giovanardi, che credo si chiami Chiara, se non sbaglio, la figlia di Giovanardi, è tornata una volta dal Sudafrica, dove ha detto al padre che si era messa con un rasta, lui non di sapeva colore. Di colore, che si era sposato con un uomo per prendere la cittadinanza. Almeno io ho capito questo, storia. Se non sbaglio. E lì finito all'ospedale. Dai, su. Mi frega, che bel mondo che abbiamo. Ma no, è il mondo normale. Il mondo di Giovanardi. Pietro da Palermo. Ciao. Ciao caro, dimmi. Ciao. Senti, aspetta, dirti... fammi finire di parlare con quello là. No, ha messo giù Angelo, quello della provincia di Taranto. Vabbè. Pietro. Allora, volevo dirti una cosa. Io quasi due volte a settimana faccio la zona di Trapani, queste zone di qua. Guarda che in autostrada, l'altra sera tu non credevi. È la verità quello che succede. Ho visto con i miei occhi due che praticamente si inculavano sul cofano della macchina. Cioè, non ho capito, scusa Pietro, spiegami bene. Dimmi. Spiegami bene, che cosa tu sei un camionista? No. Faccio il venditore. Sì. Una specie di rappresentante, diciamo. E dunque? E dunque io, passando di qua da una piazzola, sì, ho visto tutte queste macchine, mi sono fermato per fare un attimino un bisogno. Sì. E guarda che è la verità. Cioè, che cos'è la verità? Cioè che ti adescano, ti fanno tutti i segnali con le luci. E poi ho visto che c'erano due sul cofano della macchina, praticamente che si inculava. Vabbè, ho capito, però queste sono le scene. Per strada. Ma dov'eri? In che zona eri dell'autostrada? Quale autostrada? Alcamo, Castellammare, queste zone qua. Tu dici che là c'è una piazzola dove ci sono gli omosessuali che adescano i camionisti. Tutto, no? Camionisti tutti, chiunque passa. Tutti, ti chiunque passa, vabbè. Però, sì, siccome tu non credevi, io ti volevo chiamare, ma non avevo il numero. È la verità. È la verità. Sì. Vabbè. Sono garantito. Vabbè, benissimo. Alessandra, poi che c'è? No, niente, per me tutti quelli che ti criticano non capiscono completamente niente, perché tu sei l'unico a dire la verità in tutte cose. Vabbè, per me dici sempre la verità. Vabbè, Alessandra da Genova. Pronto, caro Cruciani, buonasera. Ciao, io volevo intervenire a proposito di quel signore che aveva chiamato prima circa i piccioni. Guardi, Cruciani, che io abitavo a Varazze nel 2003 o 2004. A Varazze, sì. A Varazze, sì. Allora? Allora, il comune a un certo punto ha deciso di intraprendere la strada della sterilizzazione dei piccioni. Bene. Loro, tutti il comune, appunto, certo. Sì. Non il Parlamento. Non il Parlamento, però. Su! Davano il mangime anticoncezionale al giro di 2 anni. Ma va benissimo, i comuni devono fare questo se vogliono fare, tutto. Vogliono sterilizzare i piccioni, va bene. Che bisogno c'è di presentare una interpellanza o un progetto di legge? Questo è un altro discorso. Senta, Cruciani, e poi volevo dire a Parenzo che non si inquieti per gli stupidi che non lo capiscono, che invece io lo trovo un uomo spiritoso, forse bene, perché conosco un po' la cultura yiddish e che quindi non se la prende. Gli faccio un po' di corte, Alessandra, ebbene il comune di Varazze soprattutto, sì, ottimo sì, esempio il comune di Varazze. Danzano come zanzare queste ombre. Andrea, Torino, buonasera. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Io chiamavo riguardo la questione dei Marò. Io penso che se fossero stati dei militari americani in tempo zero, gli americani se li andavano a riprendere. Ma forse non li consegnavano nemmeno, cioè, forse la nave non avrebbe, una nave americana non avrebbe consegnato i Marò agli indiani, al di là della responsabilità, perché poi tutto è iniziato da lì. Questo è il punto. Certamente non sarebbe accaduto. Perché io spero che non succeda, ma se li condannano come dicono che vogliono usare quella legge per condannarli a morte, l'antipirateria, lì il governo dovrà fare qualcosa. Ma no, ma non succederà, dai, su. Fabrizio da Caserta, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Io sono a lutto. Perché sei a lutto? Perché il grande De Luca è stato decaduto e questo è stato un dramma. Questo è un dramma. Io ho una proposta per la Zanzara. Qual è? Vincenzo De Luca, duce d'Italia. Addirittura. Vincenzo De Luca, duce d'Italia, perché in mano a Fassina, ai Toti, a quello dei piccioni e delle nute, è l'unico politico serio in quest'Italia di merda, caro Cruciani. Beh, che sia un politico... Ma è, di è un cittadino di Salerno questo Fabrizio? No, io sono campano. Vabbè, ma perché secondo lei è il numero uno De Luca? È un grandissimo amministratore, ma ti rendi conto che noi dobbiamo sentire quello della Lega Nord che parla di muse e di piccioni, mentre un amministratore serio come De Luca, al cui solo nome mi viene duro? Addirittura? Cioè lei quando sente il nome di De Luca le viene duro? Ma è malato poi, però, scusa. Ma lei è malato. Poi malato, Parenzo come... e mi si ammoscia. Vabbè, ma quello, meno male. Quello, ma guardi, detto, vabbè, quello, che guardi, questo la capisco, questo la capisco. Però lei è malato. Ma senta questo di De Luca, senta. Miei concittadini, quando non ci sarà più fra 200 anni la persona che vi sta parlando, lo rimpiangerete 3.000 volte. Salerno è una città giardino e tale deve rimanere. C'è una borsa con sulla foto e ci tengo molto perché la tengo come una reliquia. C'è la foto di Parenzo sopra. Mettiamo Cerani sui Balcani che tengo. Allora mi dicono che ieri l'intervento di questo Di Battista a Servizio Pubblico, uno dei 5 Stelle, considerato il belloccio dei 5 Stelle del Parlamento, ma non voglio prenderlo per il culo per questo, sia stato un intervento eccezionale. Abbiamo scelto qualche pezzo, magari adesso direte avete scelto i pezzi che servono a voi, abbiamo preso i voti senza la mafia alle spalle, senza la massoneria. Cioè cosa significa Di Battista, che tutti quegli altri hanno preso i voti con la massoneria, con la mafia, eccetera? Innanzitutto il proporzionale lo vogliono i cittadini che hanno votato in rete ed è la prima volta nella storia delle repubbliche che si è avviato un percorso del genere. Lei prima diceva altamente improbabile, per tanti era anche improbabile che prendessimo 9 milioni di voti senza soldi, senza la mafia alle spalle, senza la massoneria, gruppi industriali e anche gruppi criminali. E li abbiamo presi. Sofia, Sofia, Sofia, portami via. Non voglio. Sono disposto a morire per questo paese. Gullele. Alle prossime elezioni la campagna elettorale non la fa più Beppe, non la fa più soltanto lui, la fanno 160 parlamentari che in 9 mesi si sono formati e credono in questo paese. Io sarei disposto a morire per questo paese, i miei colleghi ugualmente. Sì, ce la voglia rossa e blu di Gorbazio. Se ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano, nessun compromesso. Perché in quel palazzo, se tu ti mischi a loro e ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano in 448 come la Lega. Come la Lega, sei diventato parte del sistema. Noi non siamo entrati lì dentro per diventare parte del sistema, ma per cambiarlo in modo democratico e non violento. Con noi Paolo Villaggio, buonasera. Buonasera caro, come ti chiami? Giuseppe Cruciani. Ah, mitico. Allora? Senti, dimmi caro. Allora, tu come vivi? Io vivo facendo la radio, Paolo, facendo la radio. E quindi guadagni poco? Beh, insomma, poco, adesso non esageriamo, guadagno bene, devo dire, tu? Ma io cerco di fare dei piccoli furti nei supermarket. Ma ancora con questi furti? Sempre i soldi. No, sono passato del pesce surgelato che poi è pericolosissimo. Ma scusa, mi dicono Paolo che stai preparando un libro, stai scrivendo un libro, che succede? Un altro. È il mio mestiere. Meno male, meno mi male. Mi hanno commissionato, no, che meno male. Perché una rottura di coglioni? No, divertente molto per me farlo. E perché dici meno male? E perché dici 38? Ma è la Mondadori questa volta che mi ha chiesto di scrivere insieme ad Adriano Panazza. Sì. Chi è che fa questo top top? Sei tu? No, no, non sono io. No, no. Ah, non è che tu hai un difetto? Beh, sì, ne ha tanti lui, però. Ne ho tantissimi, guarda. Ah, sì, ecco. E niente, sto scrivendo un libro a quattro mani con Adriano Panatta, che è un mio grande amico. Il signor c'è pure. Lo so. stampa e quindi... E che libro uscirà. È, scusa? Che libro è? Ti dico il titolo. Dimmi il titolo. Lei non sa chi eravamo noi. Ah, vabbè. Vabbè. È un... Ma ti hanno dato l'anticipo almeno, un po' di soldi, un po' Paolo. Di soldi te l'hanno dati? Li ho rubati, sì. No, la Mondadori. No, dai, quanto ti hanno dato di anticipo, Villaggio? Beh, sinceramente non moltissimo. Cioè? Mi vergogno a dirtelo. No, dicelo. Ma perché tu guadagni una cifra irrisoria, forse. No, io guadagno abbastanza bene. Dimmi che quanto? L'anticipo, ma che ne so, all'anno, che ne so, 250.000 euro, una cosa del genere. Quanto? 250, 300 qualche volta, ogni tanto 100.000, dipende dagli anni. Esatto, sì, io prendo sempre una cifra buona, perché beh, per ora il risultato è sempre stato buonino. Ma io voglio capire l'anticipo che ti hanno dato, dai. 350.000 euro. Per scrivere un libro? Ma non è vero, ma dai, non è possibile. Ma non è vero, dai, ci, sta prendendo no, per, ci stai prendendo per il culo, dai. Poco. Eh? Ma come poco? Ma è poi tantissimo. Ma è tantissimo, ma no, Paolo. Ma figurati. Sì. Ma si vede che voi vendete poco, non lo so. Ma no, ma noi vendiamo pochissimo. Ma non è possibile. Noi vendiamo pochissimo, dunque ci danno pochi soldi. Però voglio dire, cioè, secondo me ti hanno dato un sacco di soldi, ma tanto non è vero, non è vero. Senti Paolo, dimmi una cosa, ma è vero che tu sei stato nello stesso centro benessere dove è stato Berlusconi? Dimmi esattamente dove, perché c'è un po' di confusione. A Villa Paradiso, dove è stato Berlusconi, è vero che ci sei stato anche tu? Ma dove è esattamente? Sul lago di Garda. Sul lago di Garda. Sì, tanti anni fa. Non è servito a nulla però anche nel tuo caso, mi pare. No, sono raddoppiato di peso. Sei raddoppiato. Ma scusa un attimo, ma secondo te queste cose qua di 5 giorni, 6 giorni, vale la pena farle oppure non serve a niente? Beh, se non ti fanno pagare perché l'hanno fatto così a titolo promozionale, può essere anche divertente. È che si mangia come bestie lì. Si mangia? Come si mangia? Si mangia come bestie perché io avevo un permesso speciale per andare lontanissimo da pizzerie, quelle cose lì. E io sono controllato dai motociclisti di questo centro paradiso. Ah. Hai capito? Ma io non ho capito, alla fine sei dimagrito o no? Ma che è dimagrito? Ho guadagnato quasi 9 kg. 9 kg, ma, sì. Ma scusate, ma non è, ma questi centri qua per dimagrire non sono dei lager, Paolo, scusa, una specie di prigioni dorate, eh? Poi si paga un sacco di soldi. Alcune funzionano. Sì. Se uno ci va con delle buone intenzioni, sì, funzionano. Se uno ci va con l'intenzione invece di non farle funzionare, sinceramente non funziona. E tu che facevi? Di notte scappavi per magnà? No, non di notte, no. Aprono queste... Siamo a Merano innanzitutto, purtroppo. E quindi lì c'è la Würstel, sì, Frankfurter, tutte quelle cose micidiali. Ma tu stai registrando una cosa... Contro di me? No, che contro di me? Siamo in diretta, Paolo, dai. Comunque, guarda, Berlusconi ha finito di pagare le olgettine. 2.500 euro al mese, non gli dà più un euro. Adesso cominciasse a cacciare i soldi. Quanto? 2.500 al mese dava ogni olgettina, erano una quarantina di olgettine. Pare che il pagamento sia finito. L'ho speso. Ora, vuoi fare qualcosa? Ora. Vuoi chiedere qualche soldo tu, ora che ha finito di pagare le olgettine, o no? No, perché io ho già a mio carico 4 oggettine. Come? Sì, mi sono accollato io per amicizia, per simpatia nei riguardi di Berlusconi, la bellezza di 4 oggettine. E come fai a pagarle se non c'è un euro, scusa? Che non c'ho io i soldi? No, i soldi naturalmente me li faccio dare da dei... insomma, dei... delle persone che sanno come manovrare queste cose, no? E da chi te li fai dare i soldi, scusa? Beh, questo non te lo posso dire, maledizione. Vabbè, ma comunque non è vero che tu qua mantieni quattro oggetti. Ma dimentica che non hai una lira, no, sempre. Ma non le mantengo io. Partecipo naturalmente al compenso di queste oggettine. Un attimo. E

Villaggio, ha visto che Renzi è diventato il capo del Partito Democratico? Come no, mi ha telefonato anche. Cosa ti ha detto? Ha detto, guardi, non dica in giro che ho barato, perché altrimenti corro dei guai. E io gli ho dato del tu. Sì. D'amblè subito, ho detto, ma si figuri se io mi permettessi di dire una cosa di questo tipo di una persona che diventerà forse Presidente della Repubblica giovane. No, Presidente della Repubblica, prima Presidente del Consiglio magari, Villaggio, prima facciamolo diventare Presidente del Consiglio. Sì. No, lo si salta. Ah, lo si salta direttamente. Ma questo Renzi va a una velocità incredibile. Questo è vero, questo è vero. Però io dico una cosa, ma tu lo voteresti? Penso di averlo fatto anche. Come, ma penso? Quando, scusa? Alle primarie? No, ma quando ci saranno le elezioni, tu voterai Renzi o no? Sono molto indeciso. Dico la verità. Sì. Tra Renzi. Sì. Sinceramente, e non glielo posso dire. Tra Renzi? Purtroppo. Sinceramente sono molto. E chi? Renzi, via. Ma chi è quello dietro che parla? Chi è che ti suggerisce? Tua moglie? Chi è il suggeritore? Tua moglie? Un suggeritore. È tua moglie. Comunque ti vedo, ti sento abbacchiato, Paolo. No. Mi dispiace. Che ti è successo? Sei stato male? Ultimamente non ti si sente più. Pensavo che ti fosse successo qualcosa di gravissimo. Magari. Però. Fortunatamente non ancora, ma però. Però? Però volendo. No, in diretta no, la morte in diretta no, Paolo. Dati dell'acqua. No, meglio di no. La morte in diretta però, no. Però gli ascolti sono abbastanza interessanti in genere, no? Sì, quando se uno morisse in diretta, sì, se uno morisse in diretta, sì, non c'è dubbio. Beh, dipende dal prezzo. Cioè, non se tu saresti, potresti anche morire in diretta. Potresti per morire noi. In diretta per noi. Io no, un incidente lieve. Un lancio col parapendio, sa che cos'è, no? Dunque? Che è quello che si butta con un paracadute dalle cime di Lavaredo. Sì. E la cosa può andare o bene o male. Senti, male, sì. Beh, è difficile che per te vada bene, insomma. No, non è difficile. Non è difficile. Però ti sento veramente, ti sento veramente. Però Paolo, hai visto, Villaggio, hai visto che oggi il Papa, il tuo amico Papa Francesco, ha ricevuto i vertici di Mediaset in Vaticano? Niente, sta male, ufficialmente sta male. Ufficialmente sta male. Ma no, ho fatto veramente fatica, perché tutto considerato questo è un Papa che si muove con un'abilità straordinaria. Sì, sì. Ed è, ci sta studiando da Papa lui. Come è già Papa? È già Papa. No, un comportamento completamente diverso ormai. Comunque sai come si chiamerà la nuova legge elettorale? Italicum, probabilmente. Italicum. Come il treno? No, quello è l'Italicus. Era l'Italicus. Sì, però c'è una sinistra somiglianza con quello. Non mi pare che ti appassioni il tema della legge elettorale, però. Zero, giustamente. No, tornando al Papa, perché non ha chiamato, ancora non ti ha chiamato? Chiama tutti, in fin dei conti, potrebbe chiamare anche Villaggio. Gli ho scritto 3 volte. E allora? Non mi ha mai risposto. Mai? Beh, cosa gli hai scritto? Scusa. Ma perché ho visto che lui ha risposto a tutti, no? Sì. Io gli ho scritto 3 lettere, sì, a mano, sì, per di più, sì, grande rispetto, non mi hanno ancora risposto. Ma veramente gli hai mandato 3 lettere o ci sta prendendo in giro? Perché stasera mi sa che no, ci prende in giro. No, non ti prendo in giro. 3 lettere. Anzi, voi gli avete già scritto? No, noi no. Mai. Noi no. E perché non ho fatto una raccomandazione? Ci terrei anch'io. Scusa un attimo, ma che c'era scritto in queste lettere, Paolo? Caro Papa, sì, caro Papa Francesco, le scrivo nella nostra volgare, lei che parla una lingua, sì, una lingua ormai straordinariamente diffusa in tutto il mondo. Niente. Mi risponda, per favore, in spagnolo a questa richiesta. La mia richiesta è ricevere una lettera del Papa. Non mi ha risposto. Non ti ha risposto. Cioè, hai scritto per avere una lettera dal Papa. Però io dico una cosa, Paolo, io ti sento veramente male questa sera, non so preoccupato, perché. Preoccupato. Sono molto preoccupato per questa cosa. E ti sento abbattuto, non è che sarà ancora il riflesso della morte di tuo fratello, no? Cioè, sei un po' abbattuto ancora. No, la cosa non mi riguarda. Come non ti riguarda? Beh, scusa, un po' ti riguarda. Beh sì, ma male, perché ero preparato. Eri preparato? Adesso io spero in un miracolo, però. Cioè? Quale? Che Papa faccia un miracolo. E quale sarebbe? Immagina. No, dimmi. Immagina. Che ne so, la resurrezione? No, resurrezione no, ma la possibilità. Di che? Naturalmente che la cosa si converta poi in una burla. Ah. Sai cosa vuol dire burla? Sì, no, non ho capito bene. Non hai capito bene, ma tu quanti anni hai tu adesso? Beh, 47. Beh, pochi ancora. Ma non ho capito la burla, questa storia. Cioè, tu vuoi che il Papa trasformi tutto quello che ti è successo, tuo fratello, negli ultimi giorni in una burla? No, quello no. Non ci penso neppure lontanamente. No, assolutamente. Ma non ci hai pensato in questi giorni al fatto che prima o poi vuoi incontrare, più tardi possibile, speriamo, vuoi incontrare tuo fratello nell'aldilà, oppure non ci credi? Non ci credo. Ah, non ci credi, eh? No, purtroppo no. Cioè, non credi di poterlo rincontrare? È ateo, laico. No, io credo di poter rincontrare. Tu quanti anni hai? No, ma io no. Io lui 47, io 37. Vabbè, ma insomma, tu devi stare attento, però, con la vita che fai. Questo mi dici che guadagni molto poco. Ma ho capito, però, scusa, abbi pazienza, sto toccando ferro dappertutto. Te la sta tirando, Comunque, guarda, adesso ti lasciamo, però le notizie di cui abbiamo parlato in questa settimana, noi che siamo un po' così cialtroni, ci riferiscono che Dudu alla fine non è gay, come aveva detto Signorini, capito? Sai chi è Dudu? Sai chi è Dudu, no? E come no? È il cane di Berlusconi e della Pascale, no? Tu hai cani? Sì. Quattro cani. E beh, facciamo qualcosa. E di cui uno parlante, però. Ma ci sono femmine lì? No, sì, figurati, no. No, niente, vabbè. Sono Labrador. Comunque, alla fine siamo tutti sollevati perché Dudu non è gay. Ma sei sicuro? Sì, siamo sicuri. Beh, sì, confermato dall'onorevole Biancofiore. Fagliamo sentire, va? Abbiamo una conferma ufficiale, no, abbiamo una conferma ufficiale, non è gay. E quindi lo posso dire anche in giro? Sì, lo puoi dire in giro, sì. Puoi girare Dudu non è gay. Lo posso dire anche di te, no? Sì. Beh, per me lo puoi dire, sì, ovviamente non sono gay, non sono omosessuale, però. Ma chi te l'ha detto, però? No, ma io lo so, per quello che mi riguarda lo so, scusami, Comunque, guarda, ma che non è che hai fumato stasera? No? Non è che hai fumato un po' di marijuana, no? Mai fatto in vita mia, pensa, perché non fumo. Qualche droga l'avrei presa in vita tua, Paolo, qualche droga l'hai presa in vita tua, dai, su. Adesso che siamo... Nel modo assoluto, sono stato io, famoso, sai cos'è il Kumbh Mela, in India... lì ci sono anche 30 milioni, purtroppo. Di che? No, di gay no. No, di gay no. Ma chi parla dietro? Ma che ne so chi parla dietro? La moglie? Sì. Ma è un casino. No, quelli. Chi? Quelli che fingono di non esserlo. Ma che c'entra questo? Passaci chi c'è dietro di te, dai, così cerchiamo di capire chi c'è. Vediamo tutta la famiglia Villaggio stasera a questo punto. Passaci tua moglie. Passaci tua moglie un attimo. Tua moglie o chi c'è lì? Le maestranze? Ah, sì, lontano, no, mio figlio. Ah, è tuo figlio? Ah, beh, fantastico. Sì. Vabbè. Caro Paolo. Il giovane Villaggio. Caro Paolo. Chiamami quando vuoi. Ciao, ti sento giù stasera. Ciao, Paolo. Sento giù, sei affaticato. Hai mangiato già la minestrina? No, non ancora. Non ancora, Va bene. Sarà un'ora. Ciao, caro. Buona cena, Ciao. Grazie, caro, grazie, ciao. Non riesco a togliere l'orecchio dalla radio pur odiandovi. Le zanzare di casa mia. Parenzo, non è che mi sia particolarmente simpatico, perché, però, voglio dire, almeno cerca di mantenere la forma quantomeno. Magari la sostanza non c'è, ma la forma, perché la forma è importante, eh. Marcello, Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dimmi. Quando parla di Di Battista si deve sciacquare la bocca. Io non mi sciacco la bocca per nessuno. Non usare toni sarcastici. Io uso i toni che voglio. 100.000 volte lei, ragazzo. A voglia. Ha capito? A voglia, guarda, 100.000. 200.000. Io dico che si ritrova. Dai, non sono neanche alla diretta. Devi stare tranquillo, Marcello. È ancora possibile dissentire da un grillino o no? No, ma senti quando Di Battista dice: a parte sono disposto a morire per questo paese. Vabbè, nessuno ci crede, sono disposto. disposto a morire. Non c'è bisogno di morire, cioè, c'è bisogno di vivere, non di morire. È una repubblica fondata sulla trattativa Stato-mafia. Una trattativa Stato-mafia, marcia. Senti, senti questa roba di Di Battista. Nuovo idolo. Bene, io sono entrato 10 mesi fa e pensavo che le istituzioni fossero marce. Onestamente non a questo livello. Questa Repubblica è nata anche dalla trattativa Stato-mafia. Abbiamo un Presidente della Repubblica che quando era Ministro dell'Interno non ha fatto nulla rispetto alla Terra dei Fuochi. Si è lasciato scappare Licio Gelli. È stato rieletto con i voti di Berlusconi. Si è lasciato scappare Licio Gelli. In verità no, è lì a Villa Landa. Ma non lo so, ma si è lasciato scappare Licio Gelli. Napolitano si è lasciato scappare. Le ricostruzioni storiche di Di Battista. Dai, su. Ma non so se hai notato questa notizia oggi che ti farà incazzare sicuramente. Il comune di Montesilvano, vicino a dove abita il senatore Razzi, peraltro, è il primo comune italiano derazzistizzato. Ma veramente stai dicendo? Te lo giuro. Cioè hanno messo un cartello fuori, si è riunita la giunta, il consiglio comunale prima e poi la giunta. E hanno messo, sai quando c'erano fuori dai comuni, comune denuclearizzato, invece, ti ricordi degli anni 80, derazzizzato? No? E, no, derazzistizzato, cioè senza razzisti, cioè c'è un cartello a Montesilvano, la notizia. Vabbè, è una stronzata, dai, su. No, è veramente di poco fa la notizia. Davvero è uscita? Pronto? Sì, ma ah, sei quello di prima tu? Voi che mi avete chiamato, cosa volete? Ma scusa, non ho capito bene, hai interrotto la telefonata, dimmi, spiegami di Di Battista. Sì, te lo dico ancora una volta, te lo ripeto perché c'è il cerume nelle orecchie. Quando parli di Di Battista ti devi sciacquare la ma bocca. Ma che vuol dire? Cioè, che vuol dire sciacquarsi? Non devi usare i sarcastici. Ma che vuol dire sciacquarsi la bocca? Scusa, professore. No, professore, un paio di palle, non fare tanto l'ironico, capito? No, maestro, che vuol dire sciacquarsi la bocca? Cioè, devo stare, no, devo maestro, essere maestro, un paio di devo palle, essere rispettoso. Non devi fare l'ironico. Devo essere rispettoso. Con villaggio l'ironico. Ma devo essere rispettoso, che vuol dire? Assolutamente, perché non sei in grado di distinguere. I miei ossequi. I miei ossequi allora. Bene, cose male, lo vuoi capire o no? I miei ossequi a Di Battista, i miei ossequi a Di Battista. Bravo, cioè, Bravo. I miei ossequi anche a lei. Comunque le foto col guinzaglio le abbiamo viste tutte, signor Cucciani. Le foto col guinzaglio, non so di che sta parlando. Certo, vai diretto a vedere. Sì, le foto, ma che c'entrano le foto col guinzaglio? A parte che era una scherzo, ma comunque. No, che scherzo. Ma che c'entra con Di Battista? Scherzo. Tu che scherzi tanto con gli altri, ogni tanto scherziamo anche noi con te. Ma no? Che c'entra? Quali sono le foto col guinzaglio? Scherzo. Ma che c'entra Di Battista, scusa? Tu quando parli, te lo ripeto per la terza volta, visto che l'italiano non lo comprendi, i toni sarcastici quando parli di quel ragazzo, non usarli. No, non li usare, ti conosciamo. Una volta che mi conoscete, che fate? Ti compatiamo, cosa vuoi che facciamo con un soggetto come te? Ti conosciamo. Bene. Sì. Ma chi? Cioè, guarda, non si può criticare quello che dice una persona, no? Non si può criticare. Non si può prendere in giro. Puoi fare quello che vuoi, non devi usare i toni sarcastici. Ah, non devo usare i toni sarcastici perché non sei capace di distinguere. Perché me lo dici ciò tu? Che bene e ciò che male. Senti io questa. Sono un servo, lo certo. Servo del sistema. Bellissima questa cosa. Servo del sistema. Ma lei lo sa che è proprio un coglione? Lei sa di essere un coglione, sì, è consapevole. Celato, mi dispiace che Radio 24, Confindustria, ti paga lo stipendio. Sì. Lei lo sa di essere un coglione, sì. No, tua sorella, io non lei lo sa di essere un coglione o no? Lei lo sa di essere un coglione, sì. No, ma hai dato del servo. Mi hai dato del servo, io ti do del coglione. Puoi solo parlare. Tu mi hai dato del servo, io ti do del coglione per quello che dici. Coglione per quello che dici. Parlare, qua. Perché invece tu che fai? Io, incazzi miei, ecco cosa faccio. Senti questa cosa di Di Battista. Ma che ne so perché è arrabbiato così, fatti suoi. Senti questa cosa del tuo idolo. I due condannati che fanno la legge elettorale. Cioè lui giudica la legge elettorale in base al fatto che la fanno due condannati. Questa è la genialità di Di Battista. Senti, il nuovo idolo del signor Marcello. Senti, Di Battista, due condannati che fanno la legge elettorale. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Via. Due condannati, uno per danno erariale in primo grado e l'altro in via definitiva per frode fiscale, un ladro della collettività. Io lo chiamo il principale condannato dello schieramento a noi avverso, Berlusconi. Cioè uno schieramento globale, si incontrano e parlano di legge elettorale al di fuori del Parlamento, il luogo della legge. Le zanzare di casa. Genio. Professore, maestro? Marcello? No, maestro, un paio di palle, maestro. Cerca di non fare ironia. Cerca di essere serio una volta tanto in vita. Maestro, tua. Allora, cerca dimmi qualcosa. Di dimmi qualcosa del tuo idolo. Io sono serio quando cazzo Marcello. Mi pare. Caro Marcello, allora dimmi un po' di qualcosa del tuo idolo di Battista. Dai, perché ti fa così arrapare di Battista? No, arrapare mi fa la tua ex ragazza, mi fa arrapare. Come si chiama la... Sì. Ma perché devi dire come così? Si ma chiama? Che ne so, boh. La selvaggia Lucarelli. Sì, ecco beh. Cosa mi fa arrapare. Sì, sì, sì, bravo, bravo. Ma questa bravo. È una volgarità in alto. Ma che bravo. Volgarità? È che non c'ho tempo da perdere. È semplicemente un cretino. Ciao, amico. Ciao, ciao, professore, maestro. Ciao, ciao, ciao. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. Vado a Lecce, Bologna, Forlì. La ballata del camionista. La ballata del camionista. Romba il motore, mille fanali. Allegro il cuore, via che va. Attenzione, Blecco, a tutti i camionisti, collegatevi su Radio 24 che c'è Cruciani, vi deve dire una cosa, cappa, io sto in contatto con Cruciani, andate su Radio 24. Sorrise un fiore, il cuore ti rubò. Nuove testimonianze dalle strade italiane. Ragazzi, è così, pare che sia vero, io non mi voglio ancora convincere, però ci sono torme di omosessuali in macchina che si avvicinano ai camion e cercano di concupire, ovviamente offrendo dei soldi, cercano rapporti sessuali anche i più perversi. Sentite, sentite da ieri. La ballata del camionista, romba il motore, mille fanali. Allegro il cuore. Arriva. Ma sulla Piazzuola c'è i camionisti, c'è i gay che entrano nelle cabine dei camionisti. E c'è pure delle coppie che ti affiancano con le luci della macchina interne accese che vuole che ti trombi la moglie. E lui guarda mentre ti trombi la moglie. Beh, lei l'ha fatto? No. No, assolutamente, perché io non posso far salire il marito nella cabina perché non conoscendo non so con chi vado a scontrarmi. A qualsiasi ora. Allora, questa cosa di dire che è omofobia, questa gente qua è malata di testa. Si spogliano davanti alle persone. Te lo giuro, Giuseppe, te lo giuro, devi salire con me. Mandami Parenzo qua un giorno. Mandami Parenzo, così ogni tanto gli do anche uno schiaffo, ma in simpatia. Ti faccio vedere che vita facciamo. Io non ho capito, Davide, perché non vuoi andare a fare questo grande reportage. Francamente non l'ho capito. Ma vabbè, ci pensiamo. Ma dai, su, in mezzo a qua ai camionisti, una ma no, roba non è per quello, non è per quello. Una diretta dal camion, ma mica devi provare qualcosa. No, dai, per su. Carità, quello ci mancherebbe. Dai, Salvatore mi da pare, Bari. Mi pare la notizia è che sono tutti terrorizzati, questo è il punto. Ma che terrorizzati? Questi qui che chiamano, sono terrorizzati. Salvatore, allora, dai. Dimmi. Luciano, buonasera, Luciano. Dimmi, dai. C'è Parenzo? Sì, eccolo. Ma spegni questa maledetta radio prima che t'ammazzo, dai. Bello, bello ammazzare, Dai, forza. Mi passi un attimo quel catapulto? Sono qua. Sì, eccolo lì, dai, forza. Allora, pare, oggi c'è stato lo sgombro dei Rom a Bari. Tutti i Rom di Bari sono stati allontanati dalla città, lo sapevi? No. Non lo sapevi? E dove li hanno mandati? A fare in culo sicuramente. I Rom. A fare in culo sicuramente. Cioè tu stai dicendo con gioia che il nostro sindaco, l'amico Cacchio. Emiliano. Sì. Emiliano. Ha fatto una cosa buona finalmente. Ha smantellato i campi Rom. Ha fatto come Giancarlo Cizzo, te lo ricordi Giancarlo Cizzo? Come no, certamente. Ma qualche giorno fa hanno sgomberato un campo Rom. Beh, ha fatto benissimo, fa. Io non sono mica a favore dei campi Rom, infatti, ha fatto benissimo. No, tu sei per dare le case. Io sono per io sono bravo, perché... Bravo. Sì. E cioè, hai sentito hanno fatto fa. Benissimo a sgomberare i campi Rom, infatti. Ah, peccato, vabbè. No, ha fatto bene a sgomberare i campi Rom. Ti pare che possa essere a favore dei campi Rom, io? Sì, ma dove li vorresti mettere? Li mettiamo in cassa, è vero? No, io solo perché i rom che ne hanno diritto, cioè quelli italiani, quelli che sono rom italiani. Non hanno diritto di nessuna casa, se uno una casa non se la compra e se uno una casa non la affitta. Come tutti gli altri entrano nelle graduatorie delle case popolari, come ma tutti quali gli altri. Sono le case popolari. Ragazzi, poi, di cosa state parlando? Poi Parenzo, l'altro giorno hanno sequestrato 2 milioni di euro in un campo rom a Roma. Ma infatti sono quelli che rubano devono andare in galera. Ma infatti quelli che rubano devono andare in galera. Chi ha mai sostenuto il contrario? I rom che rubano come tutti gli altri italiani e non vanno in galera. Tu dici che lo rubano. Dobbiamo generalizzare che i rom rubano, i neri sono tutti ai semafori, i rumeni stuprano. Io sono contro queste generalizzazioni stupide e idiote. Bene che hanno sgomberato il campo rom, ottimo, gli va data la casa a chi ha vabbè diritto. Salvatore, poi chi non ce l'ha niente, no niente, dai, solo questo è la notizia che volevo dare al signor dottor Parenzo e siamo felici. Ma sono dove felice. Sei adesso, Salvatore, sull'autobus dove sei adesso? No, sono a casa adesso, sono arrivato qua a casa mia. Che hai fatto oggi? Sto giù a casa. Ah, ho lavorato, che ho fatto? E che, cioè, che hai fatto? Ho fatto un paio di viaggi qua. Ah. Lecce, Taranto. Lecce, Taranto, adesso vai a casa, mangi, no? Sì, sì, adesso mangio la faccia di Parenzo e la faccia tua. Bravo. Mangio, letto a posto. Gay ne hai incontrati? Gay ne hai incontrati per strada? Tu ci vai la volta, tu c'ha, è pieno l'Italia, i parcheggi sono pieni. Ancora, ma... Anche in Puglia. Ma tu dove cazzo vivi? Ma anche in Puglia. E lui vive lì dentro. Ma anche in Puglia. A tutte le parti. A tutte le parti. A tutte ma le... sei tosto sei io. Ma io non ho capito. In Puglia autostrada 14 Andria Nord. Sì. Parcheggio di Andria Nord. Che succede? Fermati là e vedi là che succede. Che succede? Come ti fermi per qualsiasi motivo, bam, ti arrivano 10 macchine, tutti che ti sorridono. Addirittura. E tu che fai? Però, vedi. Tu che fai? No, oh, io tiro dritto, non ti preoccupare. Non me ne frega un cazzo di loro a me. E i transessuali? Possono fare quello che voglio. Transessuali? Possono fare quello che vogliono, a me non interessa, no. Io, la grazia a Dio, ogni sera sto a casa. Quindi, cammina. Ma ok, ma tuoi colleghi camionisti alla fine ci vanno? Ah, non lo so. Io penso di sì, perché se c'è l'offerta c'è anche la domanda. Se c'è la domanda c'è anche l'offerta. Questo è poco ma sicuro. Comunque sai che è successo a Vicenza? È successo no, che il sindaco Variati del Partito Democratico vuole far lavorare i rom. Vuole far lavorare i rom, cioè paga le bollette, ma in cambio chiede di svolgere qualche attività. Vuole pagare le bollette ai rom. Paga le bollette. Loro dicono di no. Loro dicono di no. È logico, capito? Il presidente dell'associazione Sinti Italiani eccetera eccetera, un tale che si chiama Casadio, dice il sindaco Variati non può obbligare nessuno a lavorare, tantomeno un nomade. Cioè, tu è capisci, logico. No? Qui sbaglio, sì. Avevano 59.000 euro per saldare le bollette arretrate di luce e gas, due campi rom. Per i rom. Ha per chiesto i rom. In cambio di svolgere qualche attività socialmente utile, ne so, la pulizia delle strade, l'erba e cose. Questi qua ha detto no. E agli italiani gliela fa questa proposta, agli italiani? No, hanno detto di no, hanno detto di no. Perché il presidente dell'associazione. Dai, su, dai. No bolletta dei fanno domani, dei gruppi domani. Salvatore, hai capito allora, dove siamo? Capito? Ci vado anch'io, ci vado, dai. Andiamo io e Parenzo, andiamo. Così la prendo io. La prendo, roba dai. Incredibile, dai. No, ma io non è che sono a favore di queste cose, eh. Roba deve lavorare, incredibile. Oh. Ma di che parliamo? No, no, sai come dicono a Bari, è assai il danno. Cioè? È assai il danno. Vabbè, ciao, ciao. Ti toglie una regolata. Ciao, amico mio, ciao. Buona domenica. Emanuele, ciao. Provincia di Udine. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Salve. Dimmi. Allora, io telefono perché ai tempi non sospetti avevo dato un mio parere sulla signora Biancofiore, se si ricorda ai tempi, dicendo che aveva poca attività sessuale e questa cosa è stata confermata l'altra sera da voi. Cioè? Che insomma diceva che lei è molto delicata, non, cioè nel senso... Diciamo che non la dà via molto spesso. Ah, la santa anche. Sicuramente per conto mio c'è anche fatica. Vabbè, come allora... diceva prima il signore, bisogna avere richiesta per dare offerta. Io con la Biancofiore, mamma mia. E dopo, ma che c'entra Biancofiore adesso? L'ha detto la santa anche? La Santa anche la Biancofiore, sì, uguale. Ma non è uguale, non è uguale. Sì, dicono le stesse stronzate. Comunque, ragazzi, ma è vero o no che cioè, questa cosa del a me mi fa riflettere, questa cosa del sindaco di Vicenza che paga le bollette ai rom insolventi, pare che siano 125.000 euro in tre anni, è una vergogna. La cosa è un po' diversa. È una vergogna. Ci sono dei campi rom attrezzati, quelli sono attrezzati dai comuni. Allora spesso acqua, luce e gas... essendo 150.000 euro devono pagarli loro e non li hanno pagati. Non c'è dubbio. Basta, punto. Non c'è dubbio. Però spesso quello i comuni... gli dice fate qualche lavoro. Ma che fate qualche lavoro? Cacciate i soldi, rom. Cacciate il denaro. Ma questo non c'è dubbio. Pagate le bollette. Ma dai, su, ma non è possibile una cosa del genere. Cioè, gli zingari non pagano le bollette. Arriva il comune del centro-sinistro, ovviamente, e le paga con i soldi del Comune. Ma sta centro-sinistra, centro-destra, questo non c'entra niente. È un campo rom attrezzato dal ma comune. Ma non me ne frega niente. Hai capito? Questi no, qua cioè, pagano le bollette? No. Devono pagare le bollette, certo. Tutto, ma scusa, una persona normale, cosa gli tagliano, succede? Gli tagliano la luce, esatto, non c'è dubbio. Tagliassero la luce pure a loro. Poi voglio vedere quanti campi rom fanno. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Sei ancora in casa, Simo? Si brucia proprio addosso a me. Emanuele, provincia di Udine, buonasera. Salve, scusi, stavo parlando sbagliato, prima ho detto Prestigio Santa Anchem, cioè che Presti Giacomo, ma comunque ve l'ha detto anche la Presti Giacomo l'altro giorno che parlavate delle coppie. No, ma la Presti Giacomo non era da noi, ma di che sta parlando? Non era da noi, ma di che parla? Di cosa sta parlando? Io che c'era. Comunque, in ogni caso lo sapremo, però si farà copiare Dudu con quell'aborto di cane che ha la Biancofiore, perché i Carlini soffrono, devono accoppiarsi con i cani della stessa razza, se no hanno problemi al parto. Sì. Poi un'altra cosa volevo dire. Sì. I signori che parlavano di eliminare le nutrie, giusto, eccetera, io non proporrei lo stesso trattamento, ma per quelli che costruiscono vicino alle zone pericolose, franose, eccetera, io non dico di prenderli a fucilate, ma un bel decreto legge per prenderli a calci nei coglioni, quasi. Cioè, non potrebbero parlare di questo in Parlamento piuttosto di parlare di nutrie. Scusi, di cosa dovrebbero parlare? Questi signori che hanno quelle brillanti idee di costruire vicino a terreni friabili, eccetera. Sì. No, no, questo è vero, il problema non sono le nutrie, il problema è dove sono costruite le case. Vabbè, comunque gli argini che sondano, sì, sì, non è che il problema non è per le case, il problema è anche per le coltivazioni, eccetera, eccetera. Certo, Marco, certo, provincia certo. di Padova, vabbè, grazie. Marco, provincia di Padova. Pronto, ciao. Dica. Chiamavo perché da due giorni continuo a sentire che prendete abbastanza un po' per il culo chi si lamenta per le nutrie, e forse però mancavano alcuni elementi sulla nutria, che non è che fa solo dei danni agli argini, ma fa dei danni anche a livello naturale, ecco, tipo con le piante protette, fa dei danni da panico e andrebbero tutte rimosse, tutte eradicate le nutrie. Sì. Solamente che a livello nazionale non c'è ancora un piano di eradicazione. Ma non è a livello nazionale, se uno vuole lo fa, su ragazzi, dai, non ma scherziamo. No, non si può sparare adesso, il discorso della... Ma che c'entra sparare? Non è che uno può pensare che arrivano i cacciatori che sparano alle nutrie, ma su, appunto, dai. Infatti in Commissione Agricoltura stanno parlando già da un po' di tempo per poter fare questa legge Commissione qua. Agricoltura. Ma è questo che è assurdo, quello che voi non capite, che questa roba qua che è assurda. Non è che tutto può diventare una legge, dai, forza. Ma se la lista delle specie che cascabili può essere modificata solo in quel modo, non è che può sparare chi gli pare. Vabbè, ma è malato il sistema. Cioè, questo è il punto. Se per cacciare le nutrie bisogna passare dal Parlamento, è finita, è già tutto finito. Al 100% è tutto finito. Salvatore da Cagliari. Buonasera. Dimmi. Intanto buonasera da lei. Ma l'ha già detto una volta. No, io chiamavo soltanto per chiedere una cortesia, per rispetto a noi ascoltatori, per rispetto anche a Paolo Villaggio. Non li inviti più, Paolo Villaggio. È stato... Vabbè, una volta ha detto una cosa sui sardi, vabbè, dai, su. No, non me ne frega niente quello che ha detto sui sardi. Veramente non me ne frega niente quello che ha detto sui sardi, perché poi ci pensiamo noi sardi a parlare male di noi altri. Non è quello, è perché mi fa male al cuore sentire una persona che è stata molti anni fa spiritosa, acuta, e sentirla in quello stato. Non è bello. In questo senso. Beh. Non è bello. Vabbè, oggi era un po' abbattuto, di solito un po' è brillante. Oggi, insomma, anche l'altra volta l'ha chiamato. No, l'altra volta era qua in studio, era in grandissima forma. Però, insomma, comunque lei un po' ci gode a far sentire diciamo un villaggio che sbrocca e che incespica nel parlare. No, veramente no. Cioè, che sbrocca magari sì, ogni tanto quando capita, ma il villaggio di stasera francamente era anche difficile, difficile da capire, cioè, parlava male, era stanco, eccetera. Ma infatti, ma è così. Ma non è così, così sempre, non è così, dai, sempre. Via. Ciao Salvatore, via, Michele da Napoli. Da. Michele. Pronto? Abbassi la radio, dai, su, forza. Caro Cruciani, sono mesi che cerco di contattarti. È arrivato sto fenomeno adesso. Avanti, Michele. Ho sentito prima il Movimento 5 Stelle. Sì. Al quale io aderisco. Sì. Però non capisco perché si incazzano con te. Ma che ne so, boh, perché si incazzano? Si incazzano con te, perché se uno vuole sentirsi una trasmissione seria, non ascolta mica la tua. Sì. Ascolta Oscar Giannino Barisoni, lì certo che impari qualcosa. Se uno vuole farsi quattro risate, parlo con te. Bravo. Ecco quest'altro fenomeno che ha a fianco. Chi c'è di male a fare due risate? Scusa, Michele, lei questo è. Se vuole imparare qualcosa, ascolta Barisoni. Va bene, ascolta bene. Giannino. Siamo contenti, allora? Ciao, no, questo volevo dirti, si incazzano, non bisogna incazzarsi con te. Ma tu... Perché tu sei un ignorante. Sì, ma non ho capito, tu da dove vieni? Dal Movimento 5 Stelle, da dove vieni? È certo. È chiaro. Babbo, ciao, l'esercito te l'ho detto, ciao. Ciao, Giovanni da Perugia. Giovanni, buonasera, Parenzo, buonasera. Ma fammi capire, ma prendi un qualche indennizzo, una quota, un gettone, quando ospiti villaggio? Cioè, io prendo un gettone, perché? No, ma tipo, che ne so, tipo assistenza, tipo 10491, no, una persona che segue, per una mia vera curiosità. No, cioè, non prendo nessun gettone, vuoi fare l'ironico, non prendo nessun gettone, perché? No, è che faccio l'ironico, è drammatico quando parlo ultimamente, proprio ho perso completamente la bussola. Beh, oggi... No, non è che ho perso la bussola, è stanco. Oggi era stanco, era battuto, senti... così, ogni tanto succede, caro Giovanni. Un attimo solo, c'è questo dei sinti. Pronto? Signor Casadio? Sì, sono io, mi dica. Buonasera, Radio 24, Cruciani, la disturbo? Mi dica. Senta, lei è il presidente dell'Associazione dei Sinti Italiani, no? Scusi. Sì. Senta, volevo capire perché nella vicenda di Vicenza, scusi le parole, perché non, nessuno può obbligare dei Rom, dei Sinti a lavorare in cambio del pagamento delle bollette, scusi? No, ma si è espresso male il giornalista, perché io spiegavo che è importante fare volontariato, però bisognerebbe uscire anche a cercare di un inserimento lavorativo anche per i sinti e per i rom. No, scusi, però lei dice il sindaco Variati non può obbligare i sinti di Vicenza a fare lavori utili in cambio del pagamento delle bollette, giusto? Sì, lei questo ha detto? Così, il giornale dice così. No, il giornale. Ma lei che ha detto? Cioè, questi rom possono essere obbligati a lavorare, sì o no? Obbligati? Da una parte l'obbligo del lavoro nessuno ha l'obbligo del lavoro, cioè uno può continuare tranquillamente a non fare niente, lei dice, no? No, fare niente no. Fare niente. Dico, scusi, come le pagano queste bollette se non lavorano? Devono lavorare. Allora, devono lavorare. Sì. Sicuramente questo non va a ammortizzare solo l'aspetto dell'utenza, sì. Ci sono anche delle famiglie che non solo chi sta pagando o chi non paga, il concetto era... È vero che ci sono delle bollette, hanno pagato degli acconti, hanno pagato sempre la loro. Ma perché non pagano queste bollette poi? Scusi, per carità, anche l'italiano ogni tanto non pagano le bollette, perché non le hanno pagate? Ma perché c'è il misuratore elettronico abitativo, il consumatore che pagano 500-600 euro e non arrivano a poter pagare perché non sono sostenuti in un lavoro, capito? No. Ma non è che non vogliono. Però se un italiano non paga una bolletta, scusi, caro signor Casini, se un italiano normale, alcuni saranno italiani di questi qua, non è che voglio dire. Chiunque. In Italia, diciamo. Sì, allora, chiunque in Italia non paga la bolletta, a un certo punto arrivano e staccano, ha capito? Ne sono d'accordissimo, ma se uno ha un'etichetta che va a cercare il lavoro per poter produrre il salario da poter portare a casa. Ho capito, ma il lavoro, se uno io ho capito. I sinti e rom vanno a raccolta del ferro. Non, più o meno la raccolta del ferro, allora? Vendere porta a porta. E non hanno uno stipendio. Ma ho capito, ma non è che possiamo pagare noi le bollette al posto loro. Scusi, abbia pazienza. Assolutamente, ma questo è giustamente. Nessuno. Giustamente, invece sì, il sindaco si è accollato questa roba qui. Cioè, se un italiano normale. Ma lui è italiano. Uno però. Si scorda. Un italiano, sto dicendo, una persona che abita in una casa normale, no, non in un campo rom. A un certo punto si dimentica di pagare le bollette, oppure allora, è in difficoltà. Attimo, a un certo punto staccano, ha capito? Allora, c'è un problema. Allora, dal 2012 c'è la delibera 380. Sì, ma non mi faccia dove... queste robe qui. No, gli spiego io perché. C'è la delibera 380, 38 2012. No, però non mi faccia questi cosi di legge. Io voglio capire. No, già è sbagliato che il sindaco sia accollato le bollette, questi arretrati di 100.000 euro. Già è sbagliato. Gli ammortizzatori sociali, so che ha speso 5 milioni di euro per i cittadini vicentini, avrà valutato. Vabbè, ha valutato che i rom di Vicenza siano aiutati come aiuterebbe qualsiasi cittadino e basta. Ma sì, sono italiani questi rom, ma non di è Vicenza, che gli italiani no? vengano aiutati nelle bollette, però è un'altra cosa, tante cose su aiuti familiari, su chi non arriva a pagare l'affitto e su tante ma perché cose. Non vogliono fare questi lavori utili che ha previsto il sindaco, perché non lo vogliono fare? Me lo spieghi. Ma non è che non lo vogliono fare, sì, e come no, non li vogliono fare, no, cos'è? Questo è vero, no, non vogliono fare. Non è ancora esatta la cosa, cioè, come, scusi, possiamo pulire detto. I giardinetti il pubblici, il sindaco ha detto segnaleremo i finti poveri alla Guardia di Finanza e chi non accetterà di svolgere lavori socialmente utili non vedrà un euro e nei casi di false dichiarazioni porteremo mamme e figli nell'albergo cittadino. Giusto. Cioè significa che qualcuno non vuole fare i lavori socialmente utili, chi o sbaglio? Detto che non lo vuole fare? No, guardate che vi... Ma scusi, lo dicono tutti. C'è un grande fraintendimento. Allora, fino adesso chi fa volontariato l'ha fatto e lo stiamo facendo ancora oggi il volontariato. Non è il problema il volontariato o ripagare o fare uno scambio per sostenere però... queste famiglie. Il problema è uno solo, bisognerebbe cercare anche il lavoro fisso. Ma ho capito, ma il lavoro fisso, ma come lavoro fisso? Quello vale per tutti, però non è che bisogna trovare il lavoro fisso ai rom. Scusa un attimo, allora, un rom che va a lavorare e non si dichiara rom, dopo 3 mesi che viene visto che abita in un campo rom, viene licenziato perché dicono che zingano e non vogliono fare il lavoro, che non li vogliono nella loro azienda. Vabbè, quello è sbagliato, se uno lavora bene credo che debba essere... Bravissimo, ma perché noi veniamo, cioè i sinti e rom, perché vengono stigmatizzati con questo e non c'è possibilità di lavoro? La cosa fondamentale, la cosa però fondamentale è questa, scusi, se uno sta in un campo rom e non paga la bolletta... Gli devono staccare la luce, come succede a tutti gli italiani. Ma l'hanno staccati, guardate che l'hanno staccati. Sì, e poi hanno riattaccato, però. E poi abbiamo pagato noi. Questo dipende dalle sociali dopo, non dipenderà mica sociali. Completamente. Vabbè. Casa Dio, grazie. Sì. Arrivederci. Ecco. Grazie, ecco. Arrivederci. Buonasera. Ciao. Chi ce l'hanno con me, non sono Benedetto da Ferrara, Benedetto. Buonasera. Volevo chiedere solo una cosa. Cos'è che ha detto di così sbagliato al servizio pubblico di Battista? Senta, però abbassi la radio, la spenga, perché ogni volta sentiamo queste robe. Allora, io le dico una cosa, caro Benedetto, io non dico che ha detto delle cose sbagliate di Battista, cioè... Ironizza su quello ma che io detto. Sarò, ma scusi, ma io sarò padrone di ironizzare su queste cose o no? Oppure ci vuole, bisogna solamente genuflettersi di fronte alle grandi verità di Grillo e di Battista? Scusi, bisogna solo genuflettersi di fronte alle grandi verità? No, quando Grillo o di Battista dicono delle cose sensate, secondo me, io sono pronto a dirlo, sono prontissimo a dirlo. Però quando invece, secondo me, dicono delle cose che non servono a niente, scusa, ma se uno dice se ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano, per dire che non bisogna sporcarsi con nessun partito, si condanna politicamente ed è quello che sta accadendo. Ma io lo dico con rammarico, perché secondo me si condanna, perché uno non può dire o vinco io oppure il paese va in bacca, perché è una stronzata. Ma a parte il fatto che il paese è già in bacca, non so dove vabbè, ma lasci perdere, se uno... il paese è già in bacca, vabbè. a parte quello lì, ma il concetto che esprimeva Di Battista era che se quantomeno pensi di accordarti su qualche cosa, chi ti vota e chi ti ha votato per fare determinate cose, poi dopo dice questi qui si sono accordati, hanno fatto come tutti quanti e finisce. Sì, però ma non è che non è che accordarsi significa necessariamente produrre un aborto. Cioè dipende qual è l'oggetto della discussione. Renzi e Berlusconi si sono accordati su una legge elettorale. Secondo me ci sono delle cose positive in questa legge elettorale e delle cose negative. Non è necessariamente un aborto, anche perché la proposta dei 5 Stelle sulla legge elettorale non la conosciamo. Hanno fatto il referendum via internet tra gli iscritti, hanno scelto ha votato 3 volte per giunta. Hanno scelto il proporzionale, però non si sa che tipo di proporzionale, come verranno fatte le preferenze, se ne collegio o no, non si capisce. Perché in fase di elaborazione. Ma che vuol dire in fase di elaborazione? Ma è una vita che esiste. Ma le l'ha spiegato per metà febbraio. Senta, Benedetto, se lei vuole essere preso per il culo, se lei vuole essere preso per il culo da questa cosa di internet, benissimo, venga preso per il culo. Il problema è uno solo. Esistono. Perché invece noi in 40 anni di questa politica invece non siamo stati presi per il culo. Sì, certo che siamo stati. Assolutamente siamo stati presi. Siamo stati, allora, siamo stati presi per il culo alla grandissima, Benedetto, alla grande. Io sto dicendo semplicemente che i modelli di legge elettorale si conoscono da 40 anni, non c'è bisogno di consultare la rete per sapere quali sono i modelli di legge elettorale. Esistono dei gruppi parlamentari, esistono due pseudo capi o due pseudo, come dire, manovratori o due pseudo guru. Benissimo, diteci, siccome si parla da una vita di legge elettorale, diteci qual è la vostra proposta, fatecelo sapere, parlate con gli altri, non la potete fare da soli. Ma ha capito allora, o no? Se gli hanno detto che per metà febbraio si presenterà la proposta che il Movimento 5 Stelle sta elaborando. Vabbè, adesso vedremo sta proposta. Aspetteranno a metà febbraio. Mi spieghi, ma una scusi, cosa. Ma perché? Secondo lei è normale? Secondo lei è normale che in un paese, due persone, uno condannato in via definitiva. Ma quella è una stupidaggine, allora, dai, su. Ma non è che decidono loro, è il Parlamento che decide. È il Parlamento che decide. Mi dica. Mi fa fare una domanda. Mi dica. Allora, gli faccio questa domanda a lei. Lei consegnerebbe le sue chiavi di casa, vabbè, a una persona che sa. Vabbè, però vede che. Ma, cioè, ma non è una domanda assurda. Ecco, è assurda. Ma scusi, se il principio ma non è vero, le chiavi di casa. Casa mia, le riforme. Una persona che so che è condannata. Io lei Benedetto, le riforme che propongono Berlusconi, Renzi. Ma le devono fare in Parlamento. Ma le fanno in Parlamento. Devono passare in Parlamento. Ignorante, devono passare in Parlamento. Ha capito o no? Non è che il voto è coartato in Parlamento. Non è che il voto è imposto. No, non è imposto. Infatti quelli del PD, quando gli viene detto di votare una cosa, o quelli gli unici liberi sono quelli dei 5 Stelle. Allora, si è visto che fine hanno fatto i dissidenti dei 5 Stelle. Dai, su, ragazzi, non diciamo stupidaggini, dai, su questo. Ma non diciamo stupidaggini. È una vita che c'era la possibilità di sapere qual era la proposta di legge elettorale dei 5 Stelle, ancora non ce l'hanno fatta sapere. È un anno che c'è questo Parlamento ed è un anno che c'è la questione della legge elettorale, ancora non sappiamo qual è la proposta di Grillo sui 5 Stelle, sulla legge elettorale dei 5 Stelle, sulla legge elettorale. Non lo sappiamo. Perché è in fase di elaborazione, glielo ho appena spiegato. Fase a metà febbraio, sì. A metà febbraio con calma, con calma, quando è pronta ci telefona. È un anno con calma. Che c'è sto Parlamento, con calma, con molta calma. Non c'è fretta. Ci sentiamo lunedì, ciao. Vincenzo De Luca, duce d'Italia, al cui solo nome mi viene duro, poi sento Parenzo e mi s'ammoscia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24, la passione si sente.